Le piacevoli notti. Libro secondo di Giovan Francesco Straparola. Seconda favola della nona notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Pierre. Espedita la bella dichiarazione del sottile enimma, levossi Lionora, che appresso Diana sedeva, e in tal modo diede incominciamento alla sua favola, dicendo: Favola seconda. Rodolino, figliuolo di Lodovico, re di Ungheria, ama Violante, figliuola di Domizio Sarto, e, morto Rodolino, Violante, da gran dolore commossa, sopra il corpo morto nella chiesa si muore. Se l'amore è guidato da uno spirito gentile, con quella modestia e temperanza che se gli conviene, rare volte avviene che non riuscisca in bene. Ma quando è guidato da un ingordo e disordinato appetito, nuoce molto e conduce l'uomo ad orrido e spiacevole fine. Qual sia la causa di questo breve discorso, il fine della favola ve il darà a conoscere. Dicovi adunque, graziose donne, che Lodovico, re di Ungheria, ebbe un solo figliuolo, Rodolino nomato, il qual, ancor che molto giovanetto fosse, non restava però di sentire i cocenti stimoli d'amore. Il giovanetto un giorno, dimorando ad una finestra della camera sua e ravvolgendo nell'animo suo varie cose, de quai assai si dilettava, vide per avventura una fanciulla, figliuola d'un sarto, della quale, per essere bella, modesta e gentile, sì caldamente s'accese che non trovava riposo. La fanciulla, che Violante si chiamava, s'avvide dell'amor di Rodolino, e non meno di lui s'accese che egli di lei, e quando non lo vedeva si sentiva morire. Cresciuti ambiduo in pari benivolenza, amor, che fida guida d'ogni animo gentile e vera luce, operò sì che la giovanetta si assicurò di parlar con lui. Sendo un giorno Rodolino alla finestra, e conoscendo apertamente il reciproco amore che gli portava Violante, disse: Violante, sappi che tanto è l'amor ch'io ti porto che quello mai non separerà se non la scura morte. Le laudevoli e leggiadre maniere, gli onesti e real costumi, gli occhi vaghi e lucidi come stella e l'altre condizioni che io veggo in te fiorire mi hanno sì focosamente indutto ad amarti che mai altra donna che te non intendo di prender per moglie. Ed ella, che era astuta, ancor che giovanetta fosse, rispose che, se egli amava lei, assai più ella amava lui e che lei amore non era da guagliare al suo, perciò che l'uomo non ama di buon cuore, ma il suo amore è folle e vano, e più delle volte conduce la donna, che sommamente ama, a miserabil fine. «De, anima mia», diceva Rodolino, «non dir così, che se tu sentesti la millesima parte della passione che io per te sento, tu non diresti tai parole. E se tu non credi, fa l'esperienza, che allora tu vedrai se io ti amo o no». Avvenne che Lodovico, padre di Rodolino, s'avvidde un giorno dell'innamoramento del figliuolo e molto tra se stesso si dolse, temendo forte quello che agevolmente gli poteva avvenire, con vituperio e vergogna del suo regno. E senza fargli saper cosa alcuna di questo, deliberò mandarlo in lontani paesi, a ciò che il tempo e la lontananza ponesse in oblivione l'innamoramento suo. Laonde il re, chiamato un giorno a sé il figliuolo, disse: Rodolino, figliuolo mio, tu sai che noi non avemo altri figliuoli che te, né semo per averne. e il regno, dopo la morte nostra, aspetta a te come vero successore, e a ciò che tu diventi uomo prudente e accorto, e a tempo e a luogo possi saviamente reggere il regno tuo, io determinai mandarti in Austria, dove dimora Lamberico, da parte di madre tuo zio. Ivi sono uomini dottissimi, e quali per amor nostro ti ammaestreranno, e sotto la loro disciplina verrai prudente e savio. Rodolino, inteso il parlar del re, si sbigottì e quasi muto divenne, ma pur ritornato in sé disse: «Padre mio, quantunque lo allontanarmi da voi mi sia dolore e pena, perciò che mi privo della presenza vostra e della madre mia, pur, perché così v'aggrada, io sono disposto di ubbidirvi». Il re, intesa la benigna risposta del figliuolo, subito scrisse a Lamberico, suo cognato, e gli significò la causa, raccomandandogli il figliuolo come la propria vita. Rodolino, poiché fatta ebbe la larga promessa al padre, assai si duolse, ma non potendola con suo onor ritrattare, a quella consentì. Ma prima che si partisse, trovò la comodità di parlar con la sua Violante, per istruirla che far devesse fino alla venuta sua, a ciò che un tanto amore non si separasse. Trovatisi adunque insieme, disse Rodolino: «Violante, io, per compiacere al padre mio, m'allontano da te col corpo, ma non col cuore, e ovunque sarò, io sempre mi ricorderò di te. Ma pregoti, per quello amor che io ti portai, porto e porterò finché il spirito reggerà queste ossa, che tu non vogli congiungerti in matrimonio con uomo alcuno, perciò che tosto che io ritornerò, prenderotti senza fallo per mia legittima moglie, e in segno della mia intiera fede, prendi quest'anello e tiello caro». Violante, avuta la triste nuova, volse da dolor morire, ma poscia che riebbe le smarrite forze, rispose: «Signore, Dio volesse ch'io mai non vi avesse conosciuto, perciò ch'io non mi troverei in tanti duri affanni in quanti ora mi trovo. Ma poi che così vuole il cielo e la mia sorte, che voi vi allontanate da me, almeno fatemi certa se il vostro star lontano sarà breve o lungo, perciò che, essendo lungo, non potrei resistere alla volontà del padre quando mi volesse maritare». Disse Rodolino: «Violante, non ti ramaricare, stammi allegra, che innanzi che finisca l'anno sarò qui, e se in termini dell'anno non vengo, ti do buona licenza di poterti maritare». Il cosiddetto, con lacrime e sospiri, tolse licenza da lei, e la mattina per tempo, montato a cavallo, con onorevole compagnia, cavalcò verso l'Austria, ed ivi giunto, fu da Lamberico suo zio orrevolmente ricevuto. Stavasi Rodolino, per la sua lasciata Violante, addolorato molto, né sapea prender sollazzo alcuno. Ed avvenga che gli giovani si sforciassino di dargli tutti i piaceri che immaginarsi potevano, nulla però o poco valeano. Dimorando dunque Rodolino nell'Austria, con suo non poco scontento e avendo l'animo affiso alla sua diletta Violante, non avvedendosi, passò l'anno. Onde, accortosi di questo, chiese licenza al zio di ritornare a casa per vedere il padre e la madre, e Lamberico benignamente gliela concesse. Venuto Rodolino nel paterno regno e accettato con gran festa dal padre e dalla madre, gli venne in cognizione come Violante, figliuola di Domizio Sarto, era maritata, il che fu di somma letizia al re, ma d'infinito dolor a Rodolino, il qual tra se stesso molto si doleva che di tal maritaggio n'era stato causa. Dimorando il miserello in questo angoscioso tormento, né sapendo trovar remedio all'amorosa passione, voleva da doglia morire. Ma amore, che non abbandona gli seguaci suoi, e castiga quelli che non attendono le promesse, trovò il modo che Rodolino si ritrovò con Violante. Rodolino, senza saputa di Violante, una sera nella sua camera si nascose e, giacendo lei col marito in letto, chetamente andò alla callicella ed, entrato dentro pianamente, levò la sargia e posele la mano sopra il petto. Violante, che non sapeva la venuta sua, sentendosi da altri che dal marito toccare, volse dare un grido. Ma Rodolino, messa la mano alla bocca, la vietò e diedesi a conoscere. La giovane, conosciuto che ebbe lui esser Rodolino, subito si smarrì e temenza le venne che dal marito sentito non fusse, e con savio modo, meglio che ella poteva, lo spingeva da sé, né si lasciava pur basciare. Rodolino, vedendosi dal suo caro bene al tutto abbandonato e apertamente scacciato, non vedendo rimedio al gravoso affanno che ne sofferiva, disse: «Oh crudelissima fiera, ecco che io muoio. Contentati che più non avrai di vedermi fastidio, e tardi divenuta pietosa, di biasmare la tua durezza a forza costretta sarai. Oimè, e come può essere che il lungo amore che un tempo mi portasti sia ora in tutto da te fuggito?» E così dicendo, strettamente abbracciò la sua Violante, e quella, volendo o non volendo, basciò. E, sentendosi dentro al cuore già venire meno lo spirito, si raccolse in sé e, mandato fuori un gran sospiro, al lato di lei infelicemente morì. La meschinella, poiché conobbe lui esser morto, stette sopra di sé e pensava che via tener dovesse che il marito non s'accorgesse. E lasciatolo dalla lettiera nella callicella lievemente giù cadere, finse di sognare e trasse un grandissimo grido, per lo quale il marito subito si destò e, addimandata la causa del grido, tutta tremante e spaventata, gli raccontò come le pareva Rodolino, figliuolo del re, giacer seco e nelle sue braccia esser morto. E, levatosi di letto, trovò nella callicella il corpo morto disteso, che ancor era caldo. Il marito, veduto il strano caso, sbigottito rimase e molto temette della vita sua. E, fatto buon cuore, prese il corpo morto sopra le spalle e, senza esser veduto da alcuno, poselo sulla porta del regal palazzo. Il re, intesa la trista nuova, voleva de dolore dire a se stesso uccidere, ma poscia, ritornato in sé, mandò per gli medici che vedessino e giudicassino la causa della sua morte. I medici separatamente videro il corpo morto e conformemente riferirono esser morto non da ferro né da veneno, ma da dolore intrinseco. Il che inteso, ordinò il re che si apparecchiassero le funerali esequie e che il cadavere nella chiesa cattedrale fosse portato e che tutte le donne della città, di qualunque condizione essersi voglia, sotto pena della disgrazia sua, debbano andare alla bara e basciare il figliuolo morto. Concorsero molte matrone, le quali per pietà largamente il piansero, e tra l'altre vi andò la infelice Violante, la qual, desiderando almeno morto veder colui a cui vivo non aveva voluto d'un sol bascio compiacere, gettosi sopra il morto corpo e, pensando che per amor di lei era privo di vita, ritenne sì fattamente il fiato che, senza dir parola, passò dalla presente vita. Le donne, vedendo l'inopinato caso, corsero ad aiutarla, ma invano si affaticarono, perciò che l'anima s'era partita e andata a trovar quella di Rodolino, suo diletto amante. Il re, che sapeva l'innamoramento di Violante del figliuolo, lo tenne secreto e ordinò che ambiduoi fussero in una stessa tomba sepolti. Fine della storia. Già Lionora aveva messo fine alla compassionevole sua favola quando la signora le fece motto che con l'enimma seguisse, la quale senza indugio disse: «Per me sto ferma, e se talun m'assale, vo su per tetti, e spesso urto nel muro, le percosse mi fan volar senz'ale, e saltar senza piedi al chiaro al scuro, non cesso mai, se il mio contrario tale non resta, che il desir suo sia sicuro. In me principio fu pur non si vede, e cosa viva fui, né alcun mel crede». Dalla maggior parte di auditori fu inteso l'enimma da Lionora recitato, che altro non significava eccetto la palla, che è assalita da giocatori, i quali la mandano or qua or là, percuotendola con mani. Fine della seconda favola della nona notte. Registrazione di Pierre.